Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti, Obiettivo Salute insieme a voi. Noi ci siamo, c'è Peter Bescapè in regia alla parte tecnica, Anita Panizza in assistenza, Laura Vanossi in redazione, li ringrazio. E partiamo. In questi giorni stiamo pensando al domani, alla riapertura, alla ripresa, quando succederà, come sarà, come ci troveremo. E queste sono le domande che tutti noi ci facciamo quando parliamo, sentiamo parlare della tanto attesa fase 2, quella della convivenza con il virus. Ma che cosa è importante sapere e fare per essere pronti ad affrontare questo importante appuntamento? Che cosa dice la scienza? Quali certezze ha maturato e quali incognite rimangono? 349 238 6666 per i vostri commenti, per le vostre domande. Oggi in linea abbiamo il professor Massimo Clementi, che è direttore del laboratorio di microbiologia e virologia all'ospedale San Raffaele e docente all'Università Vita Salute del San Raffaele di Milano. Professore, grazie per essere con noi e buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Professor Clementi, intanto che cosa si intende per convivenza con il virus? Perché la parola convivenza rimanda ad una frequentazione, ad una relazione, e adattarla a questo nemico invisibile, ancora in parte sconosciuto, insomma, non è facile. Tutti noi vogliamo tornare a vivere una vita normale, ma al tempo stesso il virus ci fa paura. Abbiamo paura di essere infettati e abbiamo paura di infettare. Professore, partiamo da questa parola, convivenza. Dunque, in senso generale, convivenza significa che una quota variabile, sperabilmente minima, della popolazione va normalmente incontro all'infezione da parte di un certo virus. Noi conviviamo in realtà già ora con migliaia di virus diversi. Questi virus circolano nella popolazione e occasionalmente infettano una parte degli uomini. Nei confronti dei più patogeni, per difenderci, abbiamo sviluppato negli ultimi decenni soprattutto vaccini e farmaci. Il vero problema è rappresentato dai virus che per l'uomo sono nuovi, quelli che arrivano in particolare dal mondo animale, che quindi non hanno mai infettato l'uomo, oppure che si formano per un mescolamento genetico, come spesso fanno ad esempio i virus influenzali che danno pandemie. Contro questi ultimi non abbiamo, quindi i virus nuovi, non abbiamo ovviamente le armi che abbiamo nell'immediato con gli altri, ma diversamente dalle epidemie del passato, ora c'è la scienza a fianco degli uomini. Io vorrei ricordare che microrganismi che sono arrivati, non sempre virus, ma anche batteri, pensiamo alla sifilide, pensiamo alla tubercolosi, che non è arrivata a un certo punto, ma a un certo punto si è modificata la modalità, lo stile di vita delle persone, si sono creati grossi agglomerati industriali alla fine dell'Ottocento e la tubercolosi è diventata una malattia più importante di quello che era prima. Quindi convivenza è questo. Convivenza è questo. Tra l'altro noi dobbiamo convivere, conviveremo con questo virus, questo nemico invisibile, che tra l'altro sarebbe piaciuto molto a Darwin. Perché, professor Clementi? I coronavirus e anche molti altri virus il cui genoma è rappresentato da RNA, i virus hanno questa caratteristica, hanno un unico acido nucleico al loro interno che porta i caratteri ereditari, e questo acido nucleico può essere DNA per alcuni virus o RNA per altri. I virus a RNA evolvono molto rapidamente in quanto mutano con elevata frequenza, formando all'interno di un soggetto delle nuvole di genomi che hanno la capacità di adattarsi a molte situazioni, a molti ospiti. Sono, in altri termini, geneticamente plastici, si adattano. A seconda delle pressioni selettive o anche in ragione del caso a volte, prevarranno localmente ceppi con diversi livelli di virulenza e diversi tassi di riproduzione. Tra l'altro va detto che contro i coronavirus la sfida di ottenere vaccini efficaci dovrà anche fare i conti con questo elevato tasso di mutazioni del virus. Quindi questo virus e il SARS-CoV-2 responsabile del Covid-19 ha fatto un po' di un suo limite, un suo vantaggio. Sì, sì, sì. Il fatto di avere un genoma RNA può essere un limite perché i caratteri genetici non sono trasmessi in maniera stabile, ma questa variabilità è diventata per lui un vantaggio. Professor Clementi, torniamo a noi, torniamo alla, alla situazione attuale. Sarebbero circa 5 o 6 milioni i contagiati in Italia. I dati di 3 studi, 2 italiani e 1 inglese, convergono proprio su questa cifra. Mi aiuti a capire, ma questa è una cifra che rappresenta un rischio oppure un'opportunità? In questo caso mi riferisco all'immunità di gregge. Sì, questo in realtà è uno scenario ipotizzato che ancora dobbiamo verificare perché non sono stati fatti studi su una popolazione sufficientemente grande, lo sapremo presto, quando passeremo ad eseguire i test sierologici ai soggetti che non hanno manifestato la malattia dal punto di vista clinico. Quindi parlare di immunità di gregge per il momento, in questo caso, mi sembra eccessivo. Prima di arrivare a quel livello, molto più della metà dell'intera popolazione dovrebbe essere immunizzata o con un vaccino o naturalmente essendo venuta a contatto con il virus. E quindi per il momento aspetterei a parlare di immunità di popolazione. Professore, noi abbiamo sentito spesso dire, no, in questi ultimi giorni, si vede una luce in fondo al tunnel. Bene, adesso chi esce per primo dal tunnel? Su quale base si decide? Lo chiedo a lei proprio come virologo. Ci aiuti un po' a capire quali sono gli strumenti a disposizione su cui punta la scienza per questa fase, una fase molto delicata. Tamponi, test rapidi, esami sierologici, patente di immunità. Ci aiuta a capire bene? Questi sono strumenti diagnostici e è importante comprendere che si tratta di strumenti diversi, utili in modi e per aspetti diversi. La diagnosi di infezione della malattia si realizza con la ricerca diretta del virus attraverso i test molecolari, la cosiddetta diagnosi diretta, i tamponi per intenderci. Sì. Questa è la strada maestra per ogni virologo medico. La ricerca sierologica, ed è quello che è stato fatto fino ad oggi, la ricerca sierologica, detta anche indiretta perché basata sulla traccia che il virus lascia nel nostro organismo dopo l'infezione, cioè gli anticorpi specifici delle diverse classi, serve per comprendere chi è stato infettato precedentemente, poiché nel caso della presente epidemia sospettiamo che il numero degli infettati asintomatici o pauci sintomatici sia alto, questa indagine assume un evidente significato epidemiologico, ma anche di analisi della patogenesi di questo virus. Quindi dobbiamo utilizzare tutti i presidi e ben vengano varianti semplificate dell'uno, cioè dei test molecolari, o dell'altro, cioè dei test sierologici. Attualmente, tuttavia, come ha detto credo anche ieri pomeriggio il professor Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità, i test sierologici sono sottoposti al vaglio dell'Istituto Superiore di Sanità e non hanno ancora avuto offerto una garanzia di stabilità pertanto, e di affidabilità. Pertanto ancora sarebbe opportuno attendere prima di fare scelte su questi test che si esprima l'Istituto Superiore di Sanità, a mio avviso. Certo che, professore, la fase 2 è una sorta di collaudo, no? Ci auguriamo che tutto vada bene, ma lei su quale aspetto si sente di esprimere una certa tranquillità e su che cosa invece ha ancora delle perplessità, dei timori? Per come è organizzata ora, per ecco, quella, quello che quella si prospetta. Che definiamo fase 2 è importantissima, sarà importantissima perché ci stiamo per entrare. Io oggettivamente mi sento confidente sul fatto che questa epidemia sarà posta sotto controllo e che in futuro la circolazione di questo virus, se riverrà, sarà priva di quella carica di aggressività che ha mostrato finora. In altri termini, il virus magari non scomparirà, potrebbe anche scomparire, ma qualora non scomparisse e circolerà in una percentuale più modesta della popolazione, avrà un profilo clinico attenuato, associato attenuato. Quindi di che tempi parla, professor Clementi? Mi scusi, professore, quando lei tratteggia questa situazione, a che tempi si riferisce? Non tempi biblici, mesi rispetto. Ora l'epidemia nei paesi che riescono a controllarla sta declinando. Se manterremo questo stato di controllo, le possibilità per il virus sono due: o scompare perché c'è un controllo, oppure più probabilmente, come anche altri coronavirus in passato hanno fatto, rimane nella popolazione con un ruolo marginale dal punto di vista della patogenicità. Sono arrivati nei secoli scorsi coronavirus che oggi all'uomo danno dei raffreddori e delle infezioni leggere. Il timore qual è? Ecco, lei mi ha chiesto un'aspettativa positiva e anche un timore. Il timore sì. È che non riusciamo a controllare l'infezione nella fase 2 perché allentiamo troppo o troppo rapidamente le misure di contenimento. Mi ha confortato molto sentire che si pensa a una ripresa graduale, perché questo è quello che a mio avviso si dovrebbe fare. L'ha fatto prima di noi la Cina e adesso ne sta vedendo alcuni benefici, ma è ancora molto attenta soprattutto nelle infezioni di ritorno. Lo dovremmo fare noi e saremo dei battistrada per tante altre nazioni che ci stanno guardando con molta attenzione e che ci seguono. Quindi l'Italia ha anche questo ruolo. Professore, quanto tempo, non so se c'è una risposta a questa domanda, ma prima di salutarla gliela faccio ugualmente. Quanto tempo serve dall'inizio della fase 2 per capire se stiamo contenendo il rischio di una ricaduta, che è quello che naturalmente si vuole evitare, se insomma la strategia è quella giusta oppure se ci sono delle falle? Il fatto che questi virus possano avere una fase di riaccensione ci viene dalla storia. Nella grande epidemia di influenza spagnola ci fu una seconda ripresa dell'epidemia che fu addirittura più vasta. Più grave della... Ma era un'era pre-antibiotica, molti morivano per le polmoniti da pneumococco più che da virus influenzale, che pure era un patogeno importante, e quindi la storia è stata diversa dal punto di vista epidemiologico. Ora conosciamo l'agente etiologico, lo possiamo diagnosticare e quindi abbiamo questa possibilità di monitorare le mosse, l'andamento dell'epidemia. Grazie professor Clementi per essere stato con noi, le auguro una buona giornata e grazie, mi auguro di sentirla presto, grazie. Io resto a casa e soprattutto resto con voi e parlo con il mio medico di famiglia, fatelo anche voi, 349-238-6666, traffico e poi insieme a Claudio Cricelli. A tra poco. Obiettivo salute. Io resto a casa e parlo con il mio medico di famiglia. Buongiorno al dottor Claudio Cricelli, presidente della Società Italiana di Medicina Generale e Cure Primarie. Buongiorno, benvenuto e bentornato. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Dottor Cricelli, c'è posta per lei. Allora, caso numero uno. Marco, vive da solo, ha il sospetto di aver avuto il Covid, non ha più sintomi da più di 10 giorni, sente un po' di difficoltà, ha un po' di difficoltà a sentire gli odori e vorrebbe sapere se il suo sospetto è fondato, che cosa deve fare per saperlo e capire se è guarito e nel caso invece può, in caso contrario potrebbe infettare. Innanzitutto Marco mi ha già chiamato perché quando ho avuto il sospetto di avere sintomi da Covid la prima persona che ha informato è stato il medico. Quindi io lo so già, me lo sono scritto nella cartella clinica, l'ho già annotato, quando mi richiama io lo sto già seguendo da 10 giorni. Questa è la cosa fondamentale che devono sapere i nostri cittadini, che in questi 10 giorni non è stato lasciato da solo e che noi l'abbiamo seguito. Adesso sono trascorsi 10-11 giorni, Marco mi richiama o io lo richiamo per sapere come sta, apparentemente non ha più sintomi o ha pochissimi sintomi e lui mi dice: come faccio a sapere se sono guarito, come faccio ad avere la conferma di avere veramente contratto Covid? Naturalmente questa è una cosa alla quale io non posso rispondere direttamente, perché io faccio il medico di famiglia, faccio il contatto telefonico. Io ho avvertito allo stesso tempo, nel momento in cui Marco mi ha telefonato la prima volta 10 giorni fa, le strutture sanitarie, ho chiamato il numero di riferimento che io posseggo, ho mandato una mail comunicando il caso alla struttura sanitaria, alla ASL, e nel caso fosse stato necessario potrei averlo ricoverato, ma Marco evidentemente non ha bisogno. In quindi il messaggio caso, è di chiamare comunque sempre il proprio medico di famiglia, anche se abbiamo avuto una situazione, una sintomatologia che erronea, che poi, ma anche se non dovremmo farlo, pensiamo possa essere stata, certo, il Covid. Okay. Noi iniziamo il primo contatto, cioè è utilissimo quello che mi sta chiedendo, perché i cittadini di questo paese devono sapere che non appena abbiano un sospetto, lasciamo perdere se è fondato o meno fondato, c'è un primo filtro che si chiama triage telefonico, e facciamo noi. E siamo ormai diventati espertissimi, soprattutto nelle zone diciamo più colpite. Senta, dottor Cricelli, le domande sono tante. Il messaggio è arrivato, le passo alla domanda di Alessandro, che ci scrive: in generale, se con il test risulti negativo al Covid-19 e hai gli anticorpi forti da non essere contagiato, con certificato medico che attesta la cosa, puoi uscire di casa senza mascherina? Gli anticorpi con il tempo, con l'età, possono indebolirsi e quindi potresti prendere successivamente l'infezione? Sperando nel vaccino oppure un farmaco, naturalmente, che risolverà poi tutte le cose. Ci scrive Alessandro. Primo, gli anticorpi sono un test sierologico, non sono standardizzati. Ancora sono, ci sono diversi test, ciascuno dei quali dà un risultato diverso dall'altro, quindi noi li consideriamo soltanto indicativi. Una persona che abbia gli anticorpi positivi vuol dire che ha avuto un contatto, poi bisogna vedere quali, perché ce ne sono i due tipi, ha un contatto sicuramente col virus, ha sviluppato una risposta. Non sappiamo se sia difeso, perché per essere difeso dobbiamo sapere anche quanti anticorpi ha e dobbiamo poi seguirlo nel tempo. Noi possiamo dire che una persona può tornare a lavorare, ma questo lo fa l'autorità sanitaria, non il medico di famiglia, quando sono negativi due tamponi, quindi il paziente sicuramente non ha virus addosso e non lo può trasmettere, e è anche difeso, che apparentemente sono la stessa cosa, ma sono due elementi confermativi. Allora, dottor Cricelli, andiamo ad Angela, anche qui le descrivo il caso, indicazione mirata. Angela ha ricevuto dal suo medico la diagnosi telefonicamente, è guarita, ma il medico dice che non può fare il tampone. Perché? Che cosa deve fare Angela? A chi deve rivolgersi? E che cosa fanno i familiari di Angela? Il medico di famiglia che ha seguito Angela ha informato l'ASL e le unità speciali, quelle che possono andare in alcune regioni, non tutte ormai, ad eseguire fisicamente il tampone. Il tampone non lo esegue il medico, non lo ha a disposizione, non fa parte del programma quello che noi eseguiamo il tampone, ma noi informiamo le strutture, che sono le strutture sanitarie, quindi ogni paziente che ha avuto la malattia è segnalato, fa parte di una lista, viene eseguito il tampone, e quando i tamponi sono negativi, devono essere negativi due tamponi consecutivi, uno solo non basta, viene dichiarato guarito e gli viene rilasciato il certificato da parte degli uffici di igiene sanitaria preposti. Non siamo noi a rilasciare il certificato di guarigione. E non siete neanche voi a dire se la persona deve fare il tampone? Siamo noi che in caso di sospetto conclamato avvertiamo con gli strumenti che ho detto prima, il telefono o la posta elettronica, le strutture che poi sono in grado di fare il tampone, che sono tutte strutture, attualmente prevalentemente le strutture ospedaliere. Adesso ci sono delle strutture intermedie dove senza recarsi in ospedale si può eseguire il tampone. Dottor Cricelli, un'ultima domanda. Che varia da regione a regione. Dottore, un'ultima domanda. Un ascoltatore ci scrive: proprio voi avete parlato di gruppi di specialisti che intervengono direttamente a casa del paziente seguendolo e facendolo il tampone. Credo che il nostro ascoltatore si riferisca alle USCA. La domanda è: chi le manda e come faccio a capire che sono attive nella mia zona? Le USCA sono state istituite 10 giorni fa, sono ormai attive praticamente dappertutto e sono dei piccoli nuclei di medici composti da medici giovani, medici della guardia medica, la continuità assistenziale e altri giovani medici. Vengono attivate da noi. Quando noi abbiamo un caso sospetto, abbiamo il riferimento della USCA nostra di pertinenza e avvertiamo che quel paziente, in quella famiglia, in quella casa, c'è un caso sospetto conclamato. La USCA può accedere. Quindi è il medico, dottor Cricelli, è il medico di famiglia che avverte e arriva questa equipe, ma chiamata e segnalata dal medico di famiglia. Per la stragrande maggioranza ci segnaliamo direttamente noi. Dottor Cricelli, la disturberò ancora. Dorma preoccupato. Grazie. Buona giornata, ma altro che il Covid. Grazie dottor Erzegovesi per essere con noi. In chiusura, buongiorno. Che cosa ci racconta oggi? Buongiorno, faccia sognare. Nicoletta. Buongiorno. La bollitura, riabilitiamo la bollitura, e quindi rispetto a questo termine che spesso si usa, sei bollito, come dire sei stanco e sei esausto. È vero. Ma questo è vero, perché oggettivamente la bollitura è una delle tecniche di cottura usate peggio, perché noi siamo soliti bollire in tanta acqua per tempi lunghi e quindi solitamente ottenendo alla fine un prodotto che è bollito male, significa spento nei colori, ma soprattutto spento in termini di salute, quindi che ha perso. Certo, buttiamo via praticamente tutto, vitamine, sali minerali e quant'altro. Antiossidanti, tutto quello che in questo periodo diciamo sempre fa benissimo ai nostri batteri intestinali e quindi al nostro sistema immunitario. Quindi ho così messo insieme qualche piccolo consiglio per una bollitura invece amica delle verdure, ma anche amica del nostro palato e amica della nostra salute, dove la cosa fondamentale è acqua sempre salata, in questo modo escono meno sali minerali, cotture brevi, pezzi piccoli, perché se io cuocio un broccolo intero e aspetto che cotto dentro, fuori sarà una pappetta bruttissima anche da vedere, se invece lo faccio a cimettine piccole e gli do un colpo di bollitura rapido con acqua bollente salata, a questo punto scolandolo rapidamente, raffreddandolo rapidamente, è più buono, ma è molto più salutare. Andate a cercare il nostro Medicuoco Quasi Cuoco sulle pagine di Obiettivo Salute. Io vi aspetto domani. Grazie.